si annuncia la vostra carità, fratelli carissimi, che permettendo la misericordia di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo, il giorno 4 del mese di aprile celebreremo con gioia la Pasqua del Signore. Ecco, dopo la proclamazione del Vangelo, il rito ambrosiano conserva questa tradizione antichissima, risalente ai tempi di Sant'Ambrogio. Non dimentichiamo, è morto 1600 anni fa Sant'Ambrogio, di annunciare la data della Pasqua, non perché non ci fossero i calendari, oltre a quello, ma perché cominciava il catechismo degli adulti per prepararsi al battesimo che sarebbe avvenuto la notte di Pasqua. Ci sarebbe tutta una tradizione da dire, ma avremo tempo e modo di dire qualcosa delle catechesi di Sant'Ambrogio sul battesimo. Ambrogio di Milano, non a caso, è uno dei quattro grandi padri dell'Occidente cristiano. Bene, detto questo, anche questo aiuta a evidenziare la grandezza della festa della Epifania. Voi sapete che Epifania vuol dire manifestazione, la manifestazione pubblica di Gesù, e la nostra liturgia lo sottolinea così tanto che nel prefazio saranno sottolineate altre epifanie, altre manifestazioni, oltre alla stella guida dei magi, che è quella odierna, l'acqua mutata nel vino, la manifestazione di Cana, e infine il battesimo al Giordano con la manifestazione e la proclamazione del Figlio di Dio. Ma poi a ben guardare tutto il Vangelo è una continua manifestazione, una continua epifania. Se vogliamo, anche l'adorazione dei pastori è stata la prima epifania. E allora ci facciamo l'augurio insieme che lo Spirito del Signore apra i nostri occhi perché tutta la nostra vita cristiana sia una epifania del Signore. Voi dimostrate di essere della stessa stoffa dei magi, perché siete qui presenti nonostante la pandemia e nonostante il tempo brutto, 10 giorni che non smette di piovere o di nevicare, nonostante faccia freddo e stasera venga giù un'acqua un po' ghiacciata, eppure voi siete qui. Siete da assimilare ai magi a confronto di Erode, che invece sta a casa sul divano col telecomando in mano a vedere altri spettacoli anche religiosi e poi dice a voi: andate, andate in chiesa voi, poi mi direte come va. E voi siete invece persone che escono di casa e vanno. Amici, questa è la fede cristiana, il mettersi in cammino. E anche qui tutto il Vangelo è una continua ricerca dei discepoli che vanno a cercare Gesù. Chi cercate? Maestro, dove abiti? Venite e vedete. Oppure Gesù che li chiama: venite, vi farò pescatori di uomini, e lo seguono. Chi sta fermo a casa sua non sarà mai un discepolo di Gesù. Bisogna camminare dietro a Gesù. Si ha un bel dire anche in casa nostra, magari: io ci credo, prego a casa mia, tanto il Signore è dappertutto. No, bisogna seguire Gesù. Però mi perdonerete se faccio un po' il birichino, tanto mi conoscete che amo provocare fraternamente. Temo che tanti di voi stiano dalla parte di Erode per un'altra Epifania. Perché l'ultima Epifania, quella in cui Gesù si manifesterà, sarà la nostra morte, in cui andremo a vedere Gesù in paradiso. Allora su quello la gente non mi segue. No, no, meglio di qui tribolati che di là beati. Meglio il più tardi possibile. Meglio quando Dio ci chiamerà amici. Ma non dimentichiamo che dobbiamo prepararci a questo incontro. I Magi non hanno improvvisato il loro viaggio per andare incontro a Gesù. Venendo da terre lontane, hanno dovuto preparare tutto l'abbigliamento, tutte le masserizie, tutti i rifornimenti per andare a cercare Gesù. E poi alla fine fanno fatica, anche loro si smarriscono se non salta fuori all'ultimo la stella. E così anche noi, amici. La nostra ricerca del paradiso deve partire da lontano. Io ve lo dico non per essere maleducato, ma per essere vostro fratello, perché anch'io sono nello stesso cammino con voi, nella stessa ricerca, mi sto preparando e mentre lo dico a voi lo dico a me stesso. Noi riusciremo ad avere l'entusiasmo dei Magi che vanno a cercare Gesù, permettete, avere un po' anche noi l'entusiasmo di andare a cercare il paradiso, avremo un po' di questo entusiasmo se ci prepareremo. Io amo molto la vita dei santi e leggendo tanti santi vedo che si sono preparati. Hanno desiderato, una santa diceva addirittura, mi pare Santa Teresa, muoio perché non muoio. Muoio dalla voglia di morire, ma non perché fosse fuori di testa, perché si era così immedesimata col suo sposo Gesù e aveva così capito il Vangelo, perché amici, il Vangelo, togliete via il paradiso e non avete più il Vangelo. Togliete via la risurrezione di Gesù, non avete più il cristianesimo. I santi nelle loro vite hanno desiderato stare col Signore per sempre, hanno desiderato tenersi ben stretto il Signore Gesù in questa vita e nella vita eterna. E allora chiediamo insieme, amici, allo Spirito Santo il dono della Epifania quotidiana di Gesù. Che ogni giorno sia una scoperta, una rivelazione di Gesù, fino ad arrivare all'ultima Epifania, che sarà la più dolorosa come inizio, ma la più gloriosa come risultato: andare a vedere il Signore per davvero.